sé yo. Viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Lo dico in anticipo, così vi stigo subito ad un'attenta partecipazione. Stringo tra le mie dita voluttuose tre fantastici libri infami, che questa volta ho attinto dalle teche preziosissime della redazione milanese, trovandomi a Milano, e quindi ci sarà un salto di qualità nell'infamità dei libri che regalerò questa mattina a chi? A chi mi fornirà più sanguinose, concrete, reali, in cui realmente scorrano viscere e lacrime umane, vicende di vendette amorose. Le questioni d'amore naturalmente si possono risolvere in varie maniere. Si risolvono attraverso una facile, rapida, indolore eutanasia della fine dell'amore, della fine della passione. Nessuno soffre, ci si rimbecillisce, rimbambinisce nella diluizione quotidiana ciò che è stata una passione. Non l'augura nessuno. La passione può terminare per un reciproco patto di non belligeranza. Si decide che la passione è talmente bruciante, talmente invasiva, talmente deleteria che è preferibile tornare ognuno alla propria vita. Non mi interessa nemmeno questo. La passione apparentemente non si esaurisce, ma per una delle due persone naturalmente la passione viene ridistribuita attraverso altri rivoli. La persona offesa, cioè la persona che in realtà coltiva questa passione come unica ed esclusiva, a un certo punto lo scopre e inizia la vendetta amorosa. Cosa si fa quando ci si accorge che la persona di cui siamo follemente appassionati non corrisponde, o corrisponde male, o corrisponde superficialmente? Niente, naturalmente la storia si prolunga in lunghi e lancinanti e strascicanti e dolorosissimi epiloghi, ma però naturalmente la maniera migliore per alleviare le ferite dolorosissime che ci ha lasciato questa lancinante vicenda sentimentale è quella di vendicarsi. Come vendicarsi? Beh, ci sono varie maniere, variegate maniere. Tempo fa facemmo una trasmissione in cui le giadre ascoltatrici raccontarono di auto incendiate, simpatici ascoltatori raccontarono di donne abbandonate di fronte a cimiteri con la fatidica frase "qui o me la dai o scendi", cose che veramente trascendono ogni possibile umanità. Oggi vorremmo andare oltre, e per andare veramente oltre inizio con una citazione da quella che considero la mia Bibbia individuale, che è il film di Tarantino Kill Bill, nella parte seconda, in cui si consuma una meravigliosa e variegata vendetta d'amore che ha un strascico lungo, per quanto lunga la durata di due film. Ricordate che Beatrix, alias la sposa, alias Black Mamba, era stata quasi uccisa da David Carradine, Bill, perché sempre per una vendetta d'amore. Lei lo aveva lasciato, lei serial killer, al soldo di quest'uomo che ella pure amava, di un amore molto singolare, diviso tra la passione e tra la sudditanza paterna. Lei si sposa con un gaglioffo qualsiasi per nascondere il fatto che era rimasta incinta, che covava il frutto di questo amore scellerato e disperato, e non voleva che Bill si impossessasse anche di sua figlia per farne una serial killer. Quindi sposa un gaglioffo. Bill lo sa, va al matrimonio e massacra tutti, uccide tutti, uccide sposo, famiglia dello sposo, invitati, e uccide anche lei, anche Beatrix, o perlomeno pensa di averla uccisa. Lei rimane in coma per ha un lungo e travagliato periodo in cui gli infermieri addirittura affittano il semicadavere in coma a maniaci che lo possedevano per denaro, e si risveglia dal coma, uno per uno uccide tutti i suoi colleghi dell'associazione a cui apparteneva, e alla fine arriva la vendetta finale di fronte a Bill, l'uomo che lei vuole radicalmente uccidere, anche il padre di sua figlia, con la bambina addormentata nella stanza accanto, alla quale appena raccontato una favola, si prepara a consumare la sua vendetta d'amore. Io e te abbiamo una faccenda in sospeso. Parole sacrosante. Mei ti ha insegnato la tecnica dell'esplosione del cuore con 5 colpi delle dita. Sì, certo. Perché non me l'hai detto? Non lo so. Perché sono una persona cattiva. No. Tu non sei una persona cattiva. Tu sei fantastica. Sei la persona che preferisco. Peccato che di tanto in tanto sai essere una gran troia. Come ti sembro? Devo dire che ogni volta che ascolto anche soltanto questa che considero la più sublime scena d'amore mai raccontata in un film, ho un groppo alla gola e mi viene quasi da piangere. Bill, uno dopo l'altro, compie 5 passi, al 6° passo si schianta al suolo. Non da tutti è naturalmente conoscere la mossa del maestro Pai Mei dei 5 colpi che spaccano il cuore. Era una mossa segreta che il maestro di karate insegnò soltanto a Beatrix. Gli altri suoi allievi naturalmente non ebbero questo privilegio. E lei quel colpo segreto che non a caso interessa l'area fisica che simbolicamente è il ricettacolo di ogni sentimento amoroso, spezza a lui il cuore. Lui volontariamente compie quei 5 passi, non ha alternativa, e muore. Muore con grande dignità, aggiustandosi la giacca a testa alta. Aveva appena pronunciato pochi minuti prima una delle meravigliose metafore sui supereroi, perché Peter Parker si maschera da uomo ragno, in realtà Clark Kent è Superman. Un altro momento meraviglioso che vi ho spesso citato, ma in questo momento voglio il vostro contributo. 800 24 00 24. Qual è la vendetta d'amore che più dolorosamente avete subito, o come vi siete vendicati voi in situazioni amorose? Già arrivano su Facebook alcune citazioni. Donatella mi dice che una sua amica diede fuoco alla tesi laurea in architettura del fidanzato che l'aveva appena lasciata. Si trattava di tavole disegnate assolutamente irriproducibili e di cui aveva lavorato per più di un anno. Questa sì è una meravigliosa vendetta d'amore. Se Donatella chiamerà e la racconterà alla radio, forse avrà uno dei libri scellerati ed infami che stringo tra le dita vogliose. Piera: poca roba, dopo una serata un po' etilica, bottiglia vuota lanciata sull'auto in corsa della sua auto. Ecco, Piera che consuma l'ultima bottiglia insieme all'amore disperato, avrà chiesto il bicchiere della staffa, la bottiglia della staffa nel tentativo disperato di un recupero, la vendetta d'amore preceduta molto spesso da tentativi di recupero, alla fine lancia la bottiglia contro l'auto in corsa dell'amore che sparirà nel vuoto con tutti i sogni. Poca roba, voglio qualcosa di più. 800 24 00 24. Ma per stimolarvi alla partecipazione e al coming out spontaneo delle vendette d'amore, vi sottopongo la dolorosa e infame storia di Veronica. Un'ascoltatrice ci ha chiamato e ci ha descritto con dovizia di particolari la sua atroce vendetta d'amore, però in questo caso probabilmente che si è ritorta contro lei e altre persone che parteciparono a questo evento. Qualche anno fa ho avuto una storia con un uomo, è durata 6 mesi, ero innamoratissima, e quest'uomo era però gelosissimo, proprio in una maniera asfissiante. Mi controllava il telefono, mi controllava i messaggini, cioè non voleva che io frequentassi più i miei amici maschi. Se sentiva parlare di un ex, gli veniva, cioè, si arrabbiava tanto da spaccare le cose. Però vabbè, io ero presa, quindi per un po' sono andata avanti, ma fino a un certo punto ho cominciato ad avere dei sospetti. Cominciamo a delineare il quadro, perlomeno il quadro di Veronica, quanto corrisponde ai quadri delle vostre passioni amorose infrante. Veronica sta con un uomo gelosissimo, Una persona gelosa potrebbe sembrare un sintomo di innamoramento. Noi tutti ci picchiamo, rimaniamo male, ci angosciamo quando una persona che è oggetto della nostra passione amorosa non sembra geloso. Cioè, ma sì, tranquillamente, se vuoi uscire con le tue amiche, esci con le tue amiche. Se vuoi uscire con i tuoi amici, tranquillamente, non importa, divertiti, spero stai bene. Fitte lancinanti, come non è geloso? Allora chissà cosa pensare. Invece la persona gelosa sembra confortare, sembra dare soddisfazione a tutte le fantastiche pretese amorose, ma non sempre sarà così. C'erano delle cose che non mi quadravano, tipo uno spazzolino in più al bagno. Quando gli ho chiesto spiegazioni sul terzo spazzolino, mi ha detto che era uno spazzolino vecchio che teneva lì, che lo doveva buttare, che lo usava ogni tanto per pulire le piccole superfici, cose così. Oppure a volte lo chiamavo e sentivo nello sfondo voci femminili, però anche lì mi veniva detto che era la zia, la cugina, e comunque alla fine ho scoperto che lui c'aveva un'altra, ma proprio era un'altra con cui faceva gli stessi progetti che faceva con me. (800) 24 0024. Siete stimolati dalla storia di Veronica? Ritrovate qualche punto in comune con le vostre più recenti o più cocenti delusioni amorose? Vedete cosa accade a Veronica? Un amore che sembrava un idillio, addirittura corroborato dai segni più profondi della passione amorosa, come la gelosia, come il senso di volontà esclusiva, di possesso di un'altra persona, viene in qualche maniera inquinato dai primi sintomi che qualcosa non funziona. Lo spazzolino in più, mi meraviglio di questo signore, è cadere e scivolare in un sintomo così banale. Esistono spazzolini usa e getta, esiste la possibilità di bonifica totale dell'ambiente polifrequentato, questa è una regola che dovrebbe valere per tutti. L'area, se condivisa con più persone, va bonificata. La bonifica deve essere radicale, deve essere totale, bisogna disinfettare, togliere, estirpare, aspirapolverare, cambiare e togliere ogni traccia. Lasciare un terzo imbarazzante spazzolino quando già si convive con una persona significa voler lasciare delle tracce della propria trasgressione, del proprio desiderio di rottura, e quindi si merita una profonda e atroce vendetta. Io ho chiamato lei e ci siamo incontrate e ho scoperto che la storia con l'altra durava da un anno, lei però era sposata, la storia con me da 6 mesi e diceva le stesse cose, ci chiamava anche con lo stesso soprannome per non sbagliarsi, e voleva un figlio da tutte e due, e andiamo a vivere insieme, e resta a dormire qui, e sei la donna della mia vita, insomma sempre le stesse, ci diceva le stesse identiche cose. Siamo andate insieme nel suo ufficio, siamo entrate tutte e due e lui ci ha detto: io ho un problema e se volete tanto saperlo c'è anche una terza. L'affare si complica, chiaramente l'uomo in cui era incappata Veronica e la sua collega, se così si può dire, era un maschio compulsivo con scarsissima fantasia, riproduceva lo stesso modulo amoroso con numero N di persone, diceva le stesse cose, chiedeva il figlio, chiedeva una vita assieme, aveva probabilmente anche la stessa maniera di esprimersi sensualmente, una cosa noiosissima, una standardizzazione di ogni trasgressione, che significa trasgredire, che significa moltiplicare le proprie possibilità di accesso al fantasma amoroso se con tutte le persone si fa la stessa cosa, una sorta di serial killer delle passioni tristanzuole, diciamo. Però queste sono le persone che più hanno fortuna nella vita, che più hanno seguito, che più mietono vittime. Però si crea l'effetto collaterale di creare delle alleanze. Le persone serialmente trattate, che probabilmente sono anche serialmente classificate, quindi appartengono alla stessa categoria di umana, sotto le persone che hanno questo tipo di comportamento, scelgono tutte persone simili, della stessa categoria, addirittura anche simili nelle forme. Avevo un collega che aveva moglie amante identiche, che sembravano uguali, erano due vecchiette rinsecchite, l'una era una sua collaboratrice nel luogo di lavoro e l'altra era la sua moglie o quasi moglie, identiche, brutte, noiose, invidiose, arcigne. Chissà perché uno si sceglie un amante uguale alla moglie. Evidentemente c'era questa sorta di serializzazione del rapporto amoroso. Quindi ancor più merito la vendetta. 80024, chiamate, fatemi sapere, 0080024 0024, cominciate a raccontare. Cito Alito di Feta, che è un supporter su Facebook, che dice: e questa è veramente bella, non so perché non telefono, anche lui meriterebbe un libro infame. Ho raccolto un gatto morto ammazzato in strada, l'ho messo in una scatola da spedizione e l'ho inviato a una donna che mi aveva lasciato senza una ragione. Non mi si può lasciare così, lei ama i gatti più degli umani. L'ho punita cinicamente, spinto dal mio esclusivo dolore. Le arriva un gatto putrefatto dentro una scatola. Pensate che meravigliosa vendetta amorosa. Esiste una variante di vendetta organica che si manda nel pacco confezionato, ma non mi va di dirla alla radio poi a quest'ora in cui si avvicina l'ora di colazione. Ecco, cominciano ad arrivare le telefonate, cominciano ad arrivare probabilmente dei possibili vincitori del libro infame. Lia da Napoli, buongiorno. Ciao Nicoletti. Io cosa ha combinato? È stata proprio diabolica. Allora, io mi sono separata a seguito della mia separazione per via di un'altra donna. Dopo 7-8 mesi di udienze, di tribunale, eccetera, eccetera, ho comprato un'altra SIM, SIM telefonica, sì. E ho mandato a lui un messaggio civetta, facendo leva sul suo narcisismo, sul suo... Insomma, tipo, ti ho visto, ti ho notato, quanto mi piace. No, ho fatto finta di mandare un messaggio a un altro uomo, a un'altra cosa, è un messaggio civetta. Lui mi ha chiamato e dice: forse hai sbagliato numero, non sono io, non mi chiamo Marco. E da lì abbiamo cominciato a smessaggiare. Questa storia è durata 15 giorni. Ma lui sapeva che era la sua ex a mandare il messaggio? No. E non l'ha riconosciuta dalla voce? No, messaggi, solo messaggi. Ah. Perché avevo detto che avevo avuto un'operazione alle corde vocali. Stato diabolica al massimo. Sì, però è l'espediente più banale. Si usava nelle vecchie chat anni 80. L'operazione cardi vocali, so, lo usavano gli uomini, non fa capire. Lui ci è cascato. Vabbè, giustamente. Evidentemente, io ho 52, 57. Evidentemente siamo un po' sessantottini, un po' arretrati. Comunque mi mandava le stesse poesie di amore che aveva mandato a me e sicuramente aveva mandato pure a lei. Cioè tutto... Lo stesso repertorio. Sì. Al che a un certo punto ho preso questa... Poi mi parlava male di lei, che forse aveva sbagliato a separarsi, che quest'amore... No... Insomma, ho raccolto anche le confidenze, giustamente, no? Tutto via SMS. Tutto via SMS. Poi ho preso questa SIM, l'ho messa in busta in un pacchettino, in una scatolina... E l'ho portato dove lavora lei, gliel'ho fatto consegnare anonimamente dove lei lavorava. Quindi so che è successo un pandemonio e quindi lui si ritrova senza moglie e senza amante. Era quello che io... Cioè, non male. Cattivo, però un atto liberatorio. Non male, Lia. Comincio a segnarla nell'elenco dei papabili, perché mi sembra... Lei ha distrutto la relazione di questo uomo, ma giustamente, cosa sarebbe fatta questa donna? Anzi, alla donna penso che abbia fatto veramente una grossa cortesia. 80024, andiamo avanti con le vendette d'amore. Giulio da Torino. Pronto, Nicoletti? Eccomi. Ciao, intanto complimenti per la trasmissione. No, denuncio il delitto. Dunque, io sono stato sono stato il soggetto della vendetta, che però non è andata a buon fine, fortunatamente per me. Cosa ha fatto? Praticamente è successo questo: dopo un anno e mezzo di un'intensissima, bellissima storia d'amore, mi accorgo che questa non è la donna giusta per vari suoi difetti, che adesso tralascio, va bene. Difetti così. Fisici? No, difetti di comportamento più che altro, pesante. Era una persona che aveva degli strani vizi, comunque me ne elenchi uno, così no, ci mette curiosità, che vizi aveva? Ma prima di tutto bere, a me non piacciono le donne che bevono. Ma scusa, la fiatella che... alcolica non se n'era accorto subito? Ma il fatto è che io lavoravo spesso la sera, quindi... Ah, si ubriacava di mattina? Usciva con le amiche, io non c'ero, lavoravo. Era un alcolista. Quando ci incontravamo, esatto. E lei diceva: oh, che bello, sta donna così euforica, così allegra, mi si concede senza nessuna reticenza. Bella, ma parliamo di qualche... E invece era fatta fracica di tavernello. Poi invece... Ogni tanto sì, no, anche qualcosa di meglio. Comunque la sostanza è questa, dopo un po' mi... D'altro vizio? Solo questo? No, anche qualcos'altro. Tipo? Però no, ve lo dica ormai. No, ma non andiamo troppo a sondare. Vabbè, tanto figuri. Un altro solo, piccolo. No. Era alcolista poi? La menava? No, vabbè, tirava tardi magari con altri, la cosa mi dava fastidio. Ah, era anche ninfomane. Che vuole che sia. Vabbè, dopo un po' mi rompo le scatole, incontro un'altra ragazza, che poi con la quale sono stato diversi anni, tra l'altro. E passato qualche mese mi dice questa mia ex che incontro, mi dice: guarda, io verso aprile mi sposerò, cerchiamo di mettere una pietra sopra al passato, eccetera eccetera. Perché non vieni con la tua ex, con la tua attuale ragazza, porta anche tuo fratello magari. Ah, le ha proposto un partuzzo in famiglia. No, mi ha chiesto: vieni al rinfresco del matrimonio, poi ti fermi anche a pranzo, perché no? Ma perché doveva portare il fratello? Non ho capito il fratello che c'entrava. Ma perché comunque lo conosceva. Ah, per essere due e due. Poi? Esatto. Quindi? Sono stato un mese ad arrovellarmi, vado, non vado, la mia ragazza di allora: ma no, lascia perdere, guarda che non sarebbe una bella situazione, eccetera eccetera. All'ultimo momento decido di non andare, fortunatamente, perché poi da lì a un mese incontro una sua amica carissima che mi dice: guarda Giulio, era una presa per il culo, eravamo tutti davanti alla chiesa ad aspettare che tu arrivassi, e quando saresti arrivato ti avremmo preso per i fondelli tutta la giornata. Vabbè, ha avuto perspicacia, lei è andata bene. Non capisco però che vendetta nei suoi confronti, lei che cosa aveva fatto di male? No, la vendetta è stata, era sua, nei miei. Sì, ma perché? Pesante. Cosa aveva fatto di male? Perché l'aveva lasciata, perché beveva e... Perché l'avevo lasciata perché il rapporto era intenso, era bello, era tutto quello che vuoi, però non c'era... Vabbè, lei, come dire, detto a una persona che accetti le sue particolarità, cioè di avere uomini plurimi e di alzare il gomito. C'è gente che piace questo, anzi diverte molto. Va bene, grazie Giulio. È andata bene. Andrea da Brescia. Sì, salve. Tutto il rumore, ma sono vicino a una ferrovia. Sì. In questo momento sta preparando la vendetta, vuol buttare qualcuno sotto il treno, no? No, per il momento no. Cosa le è successo? La mia è una storia datata da più di 20 anni. Vent'anni fa or sono, fui abbandonato da una deliziosa fanciulla di cui ero innamorato, abbandonato per pavidità di lei, diciamo. Perché? Perché non ebbe il coraggio di sostenere un rapporto sicuramente difficile, ma perché lei cos'ha? Delle particolarità anatomiche? Qual è il problema? Perché non... cos'è che spaventava? No, allora il problema è che io ero separato da un mese praticamente, quindi... Ah, non voleva essere la spalla in cui lei recuperava la sua dignità umana, va bene, beh, mi sembra logico. Allora? Beh, non è esatto, comunque... Beh, io lo dico perché sono cattivo come appunto, come Kill Bill. Sì, ma fa benissimo. Certo. Comunque, che accade? Che io non riuscii a recuperare questo rapporto e lei faceva la commessa di una farmacia... Al che, siccome successivamente ebbi altre storie, mi dilettavo andare in questa farmacia a farmi servire da lei di profilattici o quant'altro. Ma beh, che cattivo. Mi dia 10 scatole di quelli buoni, così, insieme alla sua fidanzata nuova. E allora a lei cascavano di mano i pacchetti che stava trasportando e altre situazioni. Lei pensi se fosse stata crudele a darglieli bucati o irrorati al peperoncino? Sarebbe stata un'ottima controvendetta. Forse potrebbe essere accaduto. Potrebbe averli andati usati e riciclati. Credo. Io questo avrei fatto. Quindi arrabbiatissime, tutte insieme siamo andate a casa sua, tanto sapevamo entrambe dove era nascosta la chiave e chissà quante altro lo sapevano. Siamo andate a casa sua e l'abbiamo messa a soqquadro, completamente sotto sopra. Io mi sono occupata della cucina e del bagno. Ho preso tutto ciò che si trova in una cucina, quindi la farina, le uova, il latte, la pasta, le robe che c'aveva in frigorifero, i succhi di frutta, il detersivo, e ho rovesciato tutto per terra. Ho fatto un grande mucchio al centro della cucina, il riso ci ho versato su, e alla fine ho svuotato il secchio dell'immondizia su tutto, e poi in bagno ho versato per terra i detersivi, le creme, il dentifricio, lo shampoo, il bagnoschiuma, i profumi, tutto ciò che c'era da versare ho versato sul pavimento. 800240024, parliamo di vendette d'amore, la case history. Ciò che ci ha ispirato è Veronica. Veronica scopre che il suo uomo è un amatore seriale. Scopre che divide con un'altra donna, ma forse chissà con quante, lo stesso copione di passione amorosa. Si mettono d'accordo, entrano a casa sua, la chiave è sempre nello stesso posto, perché l'amatore seriale naturalmente è aperto a un'infinità di plurime situazioni, e cominciano, ahimè, poverine, come scolarette, come piccole bimbe, come come monelle ferite a devastare la casa, buttare ovunque oggetti, liquidi, in fondo una vendetta piccola, una vendetta che non è per nulla crudele, una vendetta che non lascia segno, anzi che gratifica l'oggetto della vendetta. E lei invece in camera ha tirato tutto fuori dagli armadi, insomma ha strappato alcuni vestiti, ha strappato alcune foto e poi insieme nel salone dove stavano anche i libri abbiamo strappato qualche libro però significativo e anche quello che ho buttato comunque che ho versato in cucina per me aveva un significato, tipo la pasta per tutte le cene che abbiamo fatto insieme, il riso perché per tutti i risotti che mi aveva cucinato che diceva che erano buonissimi, io perché l'amavo dicevo che erano buonissimi ma non erano poi un granché. Le uova, la farina, il latte per la crema pasticcera che ci facevamo quando stavamo insieme la sera, insomma aveva tutto un significato. E poi siamo scappati. 800240024, ancora la voce rotta dal pianto nel ricordo di questa vendetta. Quella vendetta disperata, quest'uomo infame, cialtrone, ricostruiva una sorta di surrogato di menage familiare con queste donne. Sempre la stessa crema pasticcera, saranno state di quelle precotte, prepronte, quelle si comprano al supermercato. Sempre lo stesso risotto, probabilmente surgelato. Aveva una sorta di bisogno di ricostruire un ambiente familiare, però in maniera plurima, proprio come un serial killer. E come finirà la storia di Veronica? Beh, ve lo dirò fra un istante, non ve lo dico subito perché la vendetta Veronica non si esaurisce qui, ma devo fare necessariamente la prima assegnazione del libro infame e sentiamo la sigla che sancisce la vittoria. Il vincitore Ho vinto qualche cosa? Lia da Napoli, crudele taroccatrice di Sim per vendetta amorosa, vince il primo libro infame, che è Ti voglio bene ma non ti amo più, come riaccendere la scintilla della passione di Andrew Marshall, meraviglioso libro trovato nel cassonetto della spazzatura della redazione milanese. Andiamo avanti, Marianna da Rimini, buongiorno. Buongiorno, io sono una grande vostra ascoltatrice, ma intervengo con molto, molto, molta passione, diciamo. Perché la sua vendetta sia sanguinosa, spero per lei. Vada al punto. Ma sanguinosa no. Io mi sono sposata a Modena, ho avuto un matrimonio non molto felice perché mio ex marito, io lo chiamavo fra l'altro spesso un bidocchio rifatto. Vabbè, se l'hai sposato lei adesso non ci sputi sopra. Qual è la vendetta? Vada al punto. La vendetta è che tramite lui ho conosciuto una persona che era anche amico, ma non solo, a Lugano. E dopo anni di matrimonio. Lei dice Lugano perché è come esportare valuta pregiata, è come fondi neri da nascondere. Esatto. Ah. Andando spesso a Lugano ho conosciuto questa persona che per lui era molto. Trafficava valuta, cosa andava a fare a Lugano? Sì, avevamo un conto corrente. Ah, così, esportavate soldi neri, va bene, con suo marito. E quindi? Quando è stata la prima legge di Tremonti ha riportato i soldi in Italia e li ha intestati tutti sul conto di un suo amico e non a me che ero la sua moglie. Questi risvolti la grande sanatoria quindi? Ma non solo soldi, anche la sua prepotenza, la sua arroganza mi ha fatto di fargli un bel regalo del suo compleanno che sono andato a letto a Parma con questo suo grande amico e che era anche l'intestatario di tutti i fondi neri riportati in patria. Sì, quindi sì, lei ha preso due piccioni con una fava, mi scusi il termine no, poco felice. Volevo anche dire che tutto sommato, cioè si è presa i soldi e l'amico. Ha perso i soldi e ha perso l'amico, ma non volevo dire anche che tutto sommato quando vuoi fare del male prima o poi ritorna, perché io dopo di questo suo amico mi sono innamorata e dopo 8 anni ho avuto anche io. Scusi, la legge Tremonti non è di 8 anni fa, che sta dicendo? Come? Cioè la legge Tremonti non ha 8 anni. No, ma io ho cominciato questa storia con Domingo circa 8 anni. Adesso fa. Ho detto anche il nome, si sarà rovinata comunque. Se c'è un Domingo che da Lugano a Parma ha una escalation d'amore. Comunque, lei penso la sua vera vendetta sia stata questa mattina raccontandola alla radio. Molti avranno ascoltato e molti avranno sofferto. E lei stessa soffrirà di questo suo gesto, spero presto. Marco. Buongiorno. Solo per mia crudeltà e non perché ci sia una motivazione questa signora soffre. Marco, vada al punto. Guardi, sono molto rapido. Storia travolgente, non molto lunga, però travolgente, piena di aspettative, di promesse da parte sua, di lei. E poi tutto d'un tratto cambia idea, proprio dall'uno al due, dall'oggi al domani. Niente, allora io, preso dalla rabbia, mi sono comprato un pesce al mercato, pescheria, e in uno di quei incontri per di chiarimento gli ho lasciato in una macchina nuova, dietro sotto sedile. In modo lei sentiva questa puzza di pesce putrefatto e non sapeva dove venire. Ho preso spunto da quei film con Walter Matthau. Beh, nella borsetta sarebbe stato meglio, mi scusi, perché la impestava personalmente, in macchina non la porta all'autolavaggio, la fa lavare, no? Ma è una puzza che rimane, perché mi è capitato anche a me di andare a pescare che mi fosse... Quindi l'ha impuzzata di pesce fradicio, questa è la sua vendetta? Sì, aveva la macchina nuova, allora non l'avrei più rivista, ho colto l'occasione, lei abita stato molto lontano da me, io sono di Vigevano. Quindi lei pensa tutto questo viaggio, il pesce si putrefaceva per bene, quindi la puzza sarà rimasta per molto tempo. Poi mi sembra buono, un buon inizio. Vania da Livorno, buongiorno. Ciao Gianluca, allora la mia storia è questa. Una sera mio marito doveva andare a cena fuori con amici, così diceva lui, e a me non, questa storia non mi convinceva. Così il giorno a pranzo decisi di mettere qualche goccetta di Guttalax nel vino. Lo comprai direttamente la mattina in farmacia. Perché qualche goccetta? Minimo una boccettina, se no l'effetto dirompente non esiste, una goccetta. Va bene, lessi, perché non l'avevo mai usato, lessi le indicazioni e ne misi un po' poche di più. E cosa accadde? Cosa accadde? Va bene, allora il pranzo finì verso le 14 e alle 14, alle 16 niente, quindi dissi vai, è andata male. Alle 16 cominciarono i primi sintomi e continuarono. Ma qual è la se l'hai presa lei la vendetta? C'è avuto un marito scacazzante in casa, qual è il vantaggio? Insomma, va bene, il fine giustifica mezzi. Sì, ma non mi sembra, non è che può trattenerlo dall'adulterio dando ogni volta il Guttalax, cioè alla fine si mette il pannolone e esce, non risolve molto, cioè la vendetta è contro di lei, equivale al tagliarsi gli attributi e far dispetto alla moglie in maniera più blanda. Lei doveva dare una purga a scadenza programmata, farlo uscire nel bello della consumazione dell'adulterio che sicuramente in cui sicuramente si può durare a suo marito, perché se lei arriva a questi estremi naturalmente lei sa che suo marito è un adultero, sarebbe accaduto l'effetto Guttalax, si sarebbe svergognato, avrebbe avuto una sorta di effetto inibitorio, una crisi da prestazione ansiolitica che lo avrebbe accompagnato tutta la vita, sarebbe rimasto per sempre impotente. Deve ancora studiare, mi scusi. Paola da Roma. Buongiorno. Dunque, io ho avuto un marito che, approfittando della mia gravidanza, ha pensato bene di sostituirmi sia in ufficio sia per il lavoro che per altre attività ludiche, diciamo così. Lo so, purtroppo a volte accade, è molto duro questo, lo so. E nulla, dopo che l'ho scoperta, eccetera, lei aveva dimenticato inavvertitamente un gioiello a casa mia. Proprio mentre lei partoriva portava un'altra casa? Sì, la sera stessa. Festeggiava il figlio. Come? Festeggiava forse il figlio appena nato. Sì, esattamente. Festeggiare. Siamo pieni di debolezze. Io ho trovato questo gioiello in casa e le ho fatto dire da mio marito che aveva un tempo limitato per venire a riprenderselo se avesse avuto il coraggio di venire. Non è venuta, io me lo sono venduto e con il ricavato andare a fare una fantastica settimana di vacanza in un villaggio esotico dove un po' di tempo prima avevo adocchiato un bel... E se l'hai fatto? Beh, sì, insomma, la sei fatto l'animatore, Paola, benissimo, resti in ascolto, resti in ascolto. Il vincitore, ho vinto qualche cosa? A Paolo da Roma, che ha avuto il coraggio di confessare quella che è la più sublime vendetta d'amore, farsi un animatore di villaggio turistico che il marito infamemente consumò atto adulterino nel talmo coniugale proprio la notte in cui lei partoriva e dava luce il frutto del loro amore, merita la vittoria del libro infame La Pronoia, che è l'antidoto della paranoia, 888 metodi per diventare selvaggiamente felici, di Bob Bresny. È contenta, Paola? Contentissima. Beh, ha vinto il libro infame. .800240024, stiamo enumerando meravigliose vendette d'amore che vanno dal farsi l'istruttore di bodybuilding di un villaggio vacanze per una mamma, neomamma, che scoprì che la notte in cui lei partoriva il marito consumava atto adulterino nel talamo coniugale, quindi così si vendicò, a blande vendette di poche gocce di Guttalask per un marito fugace che in realtà non sortì l'effetto veramente vendicatorio, a cose atroci che leggo ovunque. Ma vorrei darvi l'epilogo per dimostrare che la vendetta può avere a sua volta una controvendetta, della storia di Veronica. Veronica, ricordo, scoprì un amico amante compulsivo che riproduceva serialmente lo stesso set amoroso, quindi invito a casa di donna, offerta dello spazzolino da denti, cremina fatta in casa, risottino fatto in casa, promesse d'amore, vorrei farti un figlio, e riproduceva questo modulo all'infinito. Lei si organizza con una di queste altre sue colleghe di sventura, vanno a casa di lui e gliela devastano completamente, rovesciando tutto ciò che trovano in cucina, nel bagno, per terra e nelle suppellettili. La loro vendetta sembra conclusa, ma in realtà c'è una coda. E poi però ci è andata male, perché mentre noi eravamo insieme sedute sulle scale della cattedrale della città, lui mi ha telefonato e mi ha detto che era tornato a casa, che aveva visto tutto quel macello e che era andato dai carabinieri a denunciarmi. E vabbè, io ho pensato che stessi assolutamente bluffando, perché era il tipo che poteva farlo, e quindi non mi sono spaventata più di tanto. Però poi ha chiamato lei, e con lei ha usato un altro tipo di minaccia, le ha detto che sarebbe andata dal marito, e però che potevamo rimediare andando a pulire tutto, che è stata una cosa faticosissima. Ripulire tutta la schiuma dal pavimento è stato impossibile. Avevo detto che poverine sono delle dilettanti, la vendetta amorosa è un piatto che si mangia freddo, la vendetta amorosa va pensata, va meditata, va messa a punto con spietatezza e con metodo. Quello era una sorta di atto d'amore, in realtà non era una vendetta d'amore. Sembra quasi che le due donne avessero deciso di poter partecipare, accettare, entrare consapevolmente nella cerchia amorosa, per modo di dire, di questo signore, rovesciando casa, rovesciando suppelletti, sono comportate ancora una volta come mogli. È come il preludio di una riconciliazione, quando le mogli tirano i piatti, quando le mogli sbattono, lo fanno anche i mariti, perlomeno nei fumetti, nei cartoni animati, ci piace pensarlo. Comunque, nello stereotipo in cui tutti galleggiamo, quella vendetta non era altro che la riconferma del loro desiderio di tenere un rapporto con questa persona. Lui lo sa, quindi le convoca assieme come se lui fosse il maestro e loro fossero le scolarette, le tiene ancora in pugno, le minaccia, l'una la minaccia di denuncia, l'altra la costringe ad andare a pulire, e vanno entrambe, pensate che tristezza, in quello che è stato il luogo di consumazione degli atti amorosi multipli e plurimi di cui loro stesse sono state partecipanti di quell'uomo, e lentamente, a ginocchioni per terra, con lo straccio e con la ramazza, puliscono ogni traccia della loro vendetta amorosa. Ma sono sicuro che voi potreste fare di meglio. Vedo un po' di reticenza questa mattina, soprattutto la vedo in rete, la vedo su Facebook, che di solito è il luogo in cui più si consumano le ambiguità, le vendette, le trasposizioni di persona, di fatti amorosi. Vedo una certa reticenza nel confessarsi, e quindi approfittiamo di chi invece lo fa a viva voce chiamando all'800240024. Ricordo che ho ancora un libro infame, forse il migliore dei libri infami, potreste vincerlo, potrebbe essere vostro. Sentiamo Giuseppe da Padova. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. La mia è una storia, sento di sintetizzarla. Io no, parli pure con tranquillità, dobbiamo capire. Ho avuto una storia con un insegnante di catechismo, una donna. Maschio o femmina? Una signora, chiaramente. Chiaramente. Donna bellissima. Può accadere di tutto negli ambiti di catechismo, non è detto. Sì, era una signora catechista. Sì, sì. La descriva. Ha presente Claudia Kolb? Beh sì, dopo la conversione o prima, ai tempi di Tinto Brass? Dopo la conversione molto, si vestiva molto dimessa, una carnagione chiara, presente, no? Sì. Ecco, io ho avuto una storia con lei. E sotto la gonna stazzonata però aveva quello che aveva Claudia Kolb. Dal punto di vista sessuale era un vulcano, è insostenibile anche per me. Ma adesso non si allarghi troppo su... No, per carità. È tutto relativo. Cito l'esempio... Un uomo dopo un rapporto ha bisogno di un attimo di pausa. A lei non andava bene. Non so se l'ha mai detto la mamma. Per le donne non è proprio la stessa cosa. Lo so. Le donne non è che hanno proprio questo bisogno della pausa. Per un uomo le donne dovrebbero capire l'uomo ha bisogno. Lo so, devono capire. Quello non è un problema loro, è un problema nostro, semmai. In buona sostanza. Ma lei come ha fatto a scoprire questo vulcano in eruzione continua sotto gli occhi bassi della catechista? Io mi ricordo a Verona, durante una rappresentazione dell'Aida, sono stato invitato ad una coppia di amici, c'era questa signora. Accoppiata la signora? No, mi ha detto esci con noi, c'è questa amica. Io ho detto porca miseria, no, mi sembra un fagotto che non lo so. E nel foyer si è consumata la cosa, quindi alla fine... La storia d'amore alla partita. Alla fine la storia è questa. E praticamente noi siamo stati insieme un po', poi lei mi ha raccontato che aveva una storia con il parroco. Mi sembra il minimo questo. fa parte del quadro essenziale, scusi, sennò che ci stava a fare lì, non si capiva. Comunque mi ha detto che aveva una storia il parroco, che ha raccontato al parroco la nostra storia. Nel suggello della confessione l'ha estirpato questo suo vizio. Bene, e il parroco ha fatto di tutto perché era innamorato di lei, perché noi in qualche modo lei mi lasciasse. Io non ero molto innamorato di lei, devo dire la verità, non ero molto. Era solo una questione di sesso, certo. Sì, diciamo era così. Beh, sostanzialmente lei arriva una sera piangente da me, mi racconta tutto e del parroco, di questo, di quella. A me la cosa mi ha toccato nell'orgoglio, ho detto no, ti lascio io, insomma. Vabbè, comunque buona sostanza, io ho detto non l'ho mandata giù. E sono andato dal parroco, l'ho tampinato un po', no? Perché ho detto volevo sputtanarlo un po', come si dice. E allora? E l'ho beccato mentre era insieme con altri prelati. E davanti a tutti, l'ho sputtanato, anche è venuto fuori un gran casino. Ha detto tu ti fai la catechista che mi faccio anch'io. Sì. Senta, e lei sta a Padova? Vive a Padova? Beh, guardi, devo dire che il suo anticipare le cronache recenti fa sì che lei si meriti un attestato di riconoscenza da parte nostra. Il vincitore! Ho vinto qualche cosa? Giuseppe da Padova, per aver consumato un lubrico amore, vissuto carnalmente nella penombra della sagrestia e per aver diviso con il parroco questa sua attività ludica e per aver vendicato la sua amorosa frequentazione in maniera così plateale in un consesso di prelati, merita la vittoria e quindi l'assegnazione della nostra prima volta di Sabrina Rondinelli. Amore, istruzioni per l'uso, perché la prossima volta ci vada con i piedi di piombo. Grazie a tutti, ci sentiamo la prossima settimana. Melog 2.0.